Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio. La nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it, il nostro sito radio24.it, invece, sul quale potrete anche dialogare con chi ha un blog. Io ce l'ho, si chiama Guardie o Ladri, andate sotto il mio profilo e lo trovate. Allora, la mail perché la ricordo sempre? Perché è molto molto, come dire, gettonata, tra virgolette. E tra le mail che sono arrivate prima dell'estate, una era particolarmente interessante, proveniva dal comune, non inteso come istituzione, ma dal comune di Montegridolfo. Ci troviamo ai confini tra la Romagna e le Marche, tra la provincia di Rimini e quella di Pesaro Urbino, e ci hanno scritto una serie di cittadini, come dire, alcune persone di questo comune, per dirci: ma lo sapete voi, cara Radio 24, che qui noi abbiamo una scuola molto interessante, perché è una scuola completamente ecosostenibile. Ebbene, alla costruzione di questa scuola completamente ecosostenibile hanno partecipato e partecipano in maniera attiva anche le imprese, ed è stata effettuata grazie ad una serie di finanziamenti pubblici. Ebbene, questa scuola, che insiste in questo territorio, che se vede coinvolte le imprese, vado ad intuito, ma poi ne parleremo bene, serve anche proprio l'economia del posto, ebbene questa scuola rischia di essere tagliata non tanto nell'anno che si appresta a cominciare ovunque, ma in prospettiva futura. Perché? Perché non rientra, diciamo così, nei progetti della riforma cosiddetta Gelmini. Ed allora noi, per parlare di questa scuola, che sembra virtuosa, ma poi lo verificheremo, abbiamo chiamato con noi Carlo Lisciotto, il dottor Lisciotto, che è il responsabile delle relazioni esterne di Oikos, che è una delle aziende che ha partecipato al progetto. Buongiorno Lisciotto. Buongiorno a voi. E poi Fabio Bartolini, che è un ex consigliere comunale che aveva la delega all'ambiente ed era il referente comunale del progetto. Abbiamo chiamato lui perché? Perché è stato un po' l'anima all'interno dell'istituzione comune. Buongiorno Bartolini. Buongiorno a voi. Allora Bartolini, ci dice come nasce questa scuola, a cosa serve, qual è stato il vostro intuito e perché rischia di chiudere? Allora, innanzitutto l'iniziativa di risale al 2004, nel momento in cui vi era una necessità oggettiva di dover dare una nuova sede alla scuola, e ci siamo immaginati un percorso virtuoso, come lei ricordava, un percorso di sostenibilità. Il progetto oggi incontra sicuramente tutti i requisiti che una scuola deve avere in termini di ecosostenibilità, ed è il paradosso che ricordavate sempre in trasmissione, quanto una riforma, e la riforma Gelmini in particolare, possa in prospettiva minare la stessa sopravvivenza dell'istituto, della scuola. Per noi piccoli comuni sicuramente elemento necessario e fondamentale perché si conserva e si mantenga il comune, il presidio comunale. Certo, ma Bartolini, vorrei chiederle questo: ma questa è una scuola completamente ecosostenibile? Che cosa vuol dire in italiano? Traduciamolo. Fondamentalmente il principio della sostenibilità vede un'autosufficienza energetica dell'istituto. La scuola è autosufficiente, praticamente consuma l'energia che autoproduce attraverso il sole e attraverso il terreno con un impianto geotermico. Addirittura la Commissione europea ha individuato Montegridolfo quale esempio di buona pratica nell'ambito della ecosostenibilità degli edifici scolastici. Ma soltanto questo? Cioè è ecosostenibile soltanto perché avete dei pannelli fotovoltaici che vi permettono di autosostenervi energeticamente? Credo di no, non sarà solo questo. No, è l'aspetto che principalmente viene colto, perché ha una sua tangibilità. È un percorso di sostenibilità che è molto più complesso, è molto più, come dire, coinvolge molto di più i progettisti che hanno partecipato, le aziende stesse. Lei ricorda Oikos, presente nella persona di Carlo Lisciotto. È un approccio nuovo alla progettazione e anche alla realizzazione delle opere, dove si tiene conto degli impatti ambientali. Benissimo, questo mi piace molto, anche perché la zona è splendida. Allora Lisciotto, veniamo a lei. Che interesse hanno le imprese? La vostra, ci dica intanto la vostra, che tipo di impresa è? Che interesse hanno a partecipare a questo progetto? Meglio, che interesse hanno avuto e perché sono così arrabbiate per il fatto che questa scuola rischia di scomparire? Prego Lisciotto. Innanzitutto io sono un romagnolo d'adozione e mi sono affezionato a quest'area splendida d'Italia e tanto più a questo progetto in cui noi siamo stati coinvolti come azienda partner. Noi ci occupiamo di pitture ecologiche e quindi quale migliore occasione per poter dare il nostro contributo a un progetto completamente di bioarchitettura ecosostenibile. Sacrosanta come cosa. Ecco, ma perché vogliono farla scomparire questa scuola? Perché voi non partecipate abbastanza? Perché non vengono formati profili che magari vi servono? Intendo dire non soltanto profili professionali, ma proprio come cultura di attenzione al mondo del lavoro. Perché vogliono farla scomparire? Secondo lei, ma lì il problema di fondo è legato un po' a quelle che sono nuove indicazioni che vengono anche dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla formazione delle classi, degli istituti scolastici, soprattutto quelli primari come è la scuola di Montegridolfo, che ahimè è legato anche a un fatto più generale di se non abbandono sicuramente di una minor frequentazione delle aree collinari, dei centri urbani della collina, che sono sicuramente splendidi, ma qualche volta possono creare qualche problema logistico. Ecco, io però le chiedo questo, Lisciotto, no? Visto che è interesse delle imprese ed è interesse del comune, la stessa domanda la faccio a lei, poi la faccio identica a Bartolini. Cioè, la domanda è questa qui: ma voi non potete allora premere sui vostri colleghi imprenditori che hanno a cuore la questione dell'ecosostenibilità dell'area, non soltanto di Montegridolfo, ma anche del confine tra Pesaro Urbino e Rimini, per fare in modo che questa scuola possa anche, magari, perché no, accogliere degli studenti che arrivano anche da aree limitrofi, quindi farne un po' un punto di eccellenza sul territorio? Un'idea stupida la mia, sì, mi dica di no, sì. No, assolutamente, meno male. Diciamo che se da una parte la pubblica amministrazione, credo, e il sindaco in prima persona farà di tutto in qualche modo per veicolare, comunque creare elementi di attenzione nei confronti dei bambini, delle famiglie di quelle aree, da parte nostra c'è sicuramente la massima attenzione sotto questi punti di vista. Però senza voler essere polemici, noi in particolare il sottoscritto ha tentato diverse strade di coinvolgimento anche di altre realtà imprenditoriali, però non dicono che siano state completamente sorde, ma diciamo che qualche problema di udito l'hanno avuto. E questo certamente bello non è. Bartolini, urli la sua rabbia. Lei si è messo, come dire, in contatto con altre amministrazioni, sta provando delle strade, avete scritto alla Gelmini, cosa avete fatto? Allora, come lei ricordava, sicuramente l'impegno è quello di mantenere vivo il presidio non soltanto come scuola ma anche come presidio di sostenibilità. Il sindaco ha fatto di tutto, sta facendo di tutto, anche incontrando i colleghi conterni dei comuni vicini per far sì che questi possano comunque fare la scelta, ovvero organizzare la programmazione scolastica, anche considerando Montegridolfo come un plesso di qualità, in modo tale che possiamo raccogliere i bambini dei comuni limitrofi. Ci impegneremo anche nel sostenerne parte dei costi per quanto concerne il trasporto. Su questo il sindaco si sta adoperando tantissimo. Oh, questa è una buona notizia. Impegnarsi tutti effettivamente è una cosa interessante, perché poi porta forse in maniera più decisa al successo. Lisciotto, ma esiste, che ne so, una mail, un sito internet, un numero di telefono, in maniera tale che chi ci sta ascoltando in questo momento, magari, perché no, anche all'interno del Ministero per la Pubblica Istruzione, poi noi tenteremo di metterci in contatto con la Gelmini per portare avanti questo discorso, quindi dei riferimenti telematici e telefonici per poterne sapere di più. Certo, allora, volendo fare un'operazione di estrema trasparenza, noi non abbiamo voluto mischiare, per così dire, sacro e profano, per cui questo tipo di iniziative noi ne diamo informazione sul nostro sito aziendale, che è oikos-paint.com, però in modo particolare abbiamo sviluppato un progetto trasversale che è nato dalla volontà del presidente dell'azienda Claudio Balestri, che è una pagina, una fanpage su Facebook, Salva Ambiente. Benissimo, sì, benissimo. Dove veicoliamo tutti i messaggi legati alle tematiche sostenibilità, benissimo. Dove invitiamo anche gli altri imprenditori a dare il proprio contributo. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. Ottimo. Come azienda che produce pitture decorative, ma anche proponendo queste tematiche che non hanno nessun tipo di finalità di carattere commerciale. Allora, io ringrazio Carlo Lisciotto, responsabile delle relazioni esterne di Oikos, che è una di queste imprese, che ha partecipato al progetto di questa scuola ecosostenibile, ecocompatibile, che si trova a Monte Gridolf, che rischia di essere chiusa. Grazie a Fabio Bartolini, che ne è stato un amministratore in quel comune, ma soprattutto l'anima del progetto dall'interno dell'amministrazione stessa. Dico grazie in regia a Filippo Oreggi, in studio a Valeria Coffaro e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.